Storie italiane. Principessa Ase. Molto tempo fa, nell'antica capitale del Giappone, vivevano un nobile statista chiamato Principe Toyonari Fujiwara, sua moglie, la principessa Murasaki, e la loro bellissima figlia, principessa Hasehime. Erano davvero una famiglia felice, fino a quando un giorno la principessa Murasaki si ammalò gravemente. Sapeva che non sarebbe sopravvissuta a lungo, quindi chiamò sua figlia Hasehime, che allora aveva solo 5 anni. Non capiva davvero cosa stesse succedendo, ma anche allora era una figlia obbediente e un'anima compassionevole. Madre! Mia cara, penso di dover andare. Dove vai, mamma? In un nuovo bellissimo mondo. Non ho altra scelta che andarmene, tesoro. Quando me ne sarò andata, dovrai essere coraggiosa, va bene? Non piangere, cara, e prenditi cura di tuo padre. Sì, mamma. Hasehime, una persona saggia e sempre rispettosa nei confronti degli anziani e compassionevole con i giovani. Tratta tutti con amore e rispetto. Sii grata per tutto ciò che la bella vita ti porta e sii paziente quando qualcosa andrà storto. Cara, non hai idea di quanto potere abbiano queste cose apparentemente semplici. Ti accompagneranno nei momenti difficili della vita. Sì, mamma. E infine, cara, dopo che me ne sarò andata, tuo padre potrebbe risposarsi. Tratta sua moglie come la tua vera madre e dalle lo stesso amore e rispetto che dai a me. Farò come dici tu, mamma. E con questo la nobile Murasaki respirò per l'ultima volta. Trascorsero alcuni anni e il principe Toyonari sposò la principessa Terute. Terute non era nemmeno vicina all'essere saggia e gentile come la principessa Murasaki. Terute era gelosa e malvagia. Ogni volta che vedeva Hasehime, il suo cuore bruciava per la gelosia e continuava a ricordare a se stessa: «Lei non è mia figlia, non posso amarla!» «Madre, guarda cosa mi ha detto il maestro!» «Altezza, è eccezionalmente abile nel suonare il koto! Sua figlia deve renderla orgogliosa!» «Lei non è mia figlia!» «Madre, ho scritto questa poesia, posso leggertela?» «Non mi infastidire, Hasehime! Non ho tempo per le tue stupide poesie! Vattene via!» «Mia cara principessa, non ti senti male quando ti tratta in questo modo?» «A volte sì, ma poi quando mi sento male inizio a pensare a tutte le cose belle della vita e indovina, mi sento di nuovo meglio!» «La mamma aveva ragione. Amore, rispetto, gratitudine e pazienza ci danno il potere di affrontare qualsiasi cosa nella vita!» Hasehime non mancò mai di dimostrare rispetto nei confronti di Terute. Nel frattempo, Hasehime stava diventando una giovane donna davvero intelligente e sveglia. Lavorava duramente per i suoi studi, era estremamente brava negli sport e sapeva maneggiare la spada e scoccare frecce come una guerriera. Ma le due materie che le piacevano di più erano la musica e la poesia. Ed era eccezionalmente brava in entrambe. «È stato bellissimo, Hase.» «Vostra Altezza, non abbiamo mai sentito musica così bella in vita nostra. La principessa Hasehime è famosa in tutto il Giappone per la sua poesia e musica.» «Sono orgoglioso di te, mia cara. Sei la vera erede della dinastia Fujiwara.» «Altezza, un messaggero è qui dalla corte del nostro grande imperatore.» «Per favore, fallo entrare.» «Saluti, principe Toyonari. Vi porto una richiesta dal nostro grande imperatore.» «La sua richiesta è un ordine per me. Dimmi, cosa posso fare per lui?» «Per il grande festival di primavera e sole, sua altezza richiede che la principessa Hasehime suoni il koto nel gran concerto al palazzo reale e che la principessa Terute l'accompagni al flauto.» «Per favore, di' al nostro grande imperatore che sarò davvero un onore per loro suonare il gran concerto.» Quindi la principessa Hasehime e Terute andarono al gran concerto. Hasehime suonò con così tanta grazia e bellezza che l'intero regno rimase affascinato dalla sua musica. L'abilità con cui suonava era troppo per Terute, poiché Terute era pigra e non le piaceva esercitarsi correttamente. Presto, Terute non riuscì a tenere il passo con la musica di Hasehime e dovette smettere di suonare del tutto. Ma nessuno sembrò accorgersene perché tutta la loro attenzione era concentrata sulle deliziose melodie di Hasehime. Alla fine del concerto, l'imperatore stesso fece dire questo a Hasehime dal suo messaggero. «Principessa Hasehime, l'imperatore desidera dirti che il Giappone è davvero fortunato ad avere una persona del tuo talento sul suo territorio. Esprime la sua gratitudine per essere venuta qui e come segno del suo apprezzamento vorrebbe il permesso di donarti 10.000 degli inestimabili gioielli del tesoro reale». «L'apprezzamento del grande imperatore è un tesoro sufficiente per me». «Sì! La principessa Terute divenne più che mai piena di gelosia nell'ascoltare che anche il grande imperatore elogiava Hasehime. Ora Hasehime aveva una fama che nemmeno i più grandi principi dell'impero possedevano. Terute non poteva sopportarlo, ma non poteva fare nulla, poiché la gentile principessa aveva il favore di tutti nel regno. Fece del suo meglio per mentire al principe Toyonari. Di al principe esattamente quello che ti ho chiesto di dire. Guarda cosa ha fatto nostra figlia oggi. Era arrabbiata con me perché l'acqua del suo bagno non era abbastanza calda, quindi ha lanciato l'acqua sulla mia faccia. Bel tentativo, Terute. Mi piace che cerchi di farmi scherzi del genere. Ma so che la mia Hasehime non potrebbe mai fare una cosa del genere. Oggi Hasehime mi ha disturbata mentre mi esercitavo con il flauto. Non ti ha disturbata, mia cara. Sono sicuro che deve aver provato a correggere qualche difetto nelle note che stavi suonando. Nulla di ciò che Terute dicesse fece mai dubitare o arrabbiare il principe nei confronti di Hasehime neanche per un momento. La frustrazione di Terute sembrava crescere ogni giorno fino a quando un giorno decise che non ce la faceva più. Erano nella corte del principe quando arrivò il messaggero dell'imperatore. «Oh, buon principe Toyonari! Porto una richiesta sincera, non solo dall'imperatore, ma piuttosto da tutto il regno del Giappone». «Cosa posso fare per voi?» «Il nostro imperatore è malato. È profondamente preoccupato per le inondazioni che stanno divorando tutti i raccolti in tutto il regno. Dobbiamo compiacere gli spiriti di tuono, fulmine, pioggia e fiumi in modo che possano calmarsi e risparmiare le nostre terre e risparmiare la salute del nostro imperatore». «Capisco, la situazione è davvero grave, ma ti prego, come posso aiutare?» «La principessa Hasehime è una poetessa esperta. Se potesse scrivere una preghiera agli spiriti di tuono, fulmine, fumi e pioggia, loro sarebbero contenti e risparmierebbero le nostre terre e il nostro imperatore tornerebbe in salute». «Hasehime?» «Padre, questa è una grande responsabilità. Farò del mio meglio per servire l'impero, l'imperatore e gli spiriti. Datemi un po' di tempo». «Puoi prendere tutto il tempo che vuoi. Facci sapere quando sarai pronta». Hasehime si chiedeva come avrebbe fatto piacere agli spiriti arrabbiati. Più e più volte pensò ai consigli che la madre morente le aveva dato. Hasehime, una persona saggia e sempre rispettosa degli anziani e compassionevole con i giovani, tratta tutti con amore e rispetto. Sii grata per tutto ciò che la bella vita ti porta e sii paziente quando qualcosa andrà storto. Cara, non hai idea di quanto potere abbiano queste cose, apparentemente semplici. Ti accompagneranno nei momenti più difficili della vita. Hasehime decise di fare dell'amore, del rispetto, della gratitudine e della pazienza il tema della sua poesia. Per trovare le parole, suonò musica per farsi ispirare. Andò nel bosco per connettersi con gli spiriti della natura. E poi lasciò che il suo cuore sussurrasse le parole nella sua mente. In poco tempo aveva scritto un lungo e bellissimo poema per spiriti di tuoni, fulmini, pioggia e fiumi. Si fermò sulle terre del Tutsuta e sollevò la sua poesia verso il cielo, cantandola con tutto il suo cuore, ipnotizzando tutto con la bellezza, l'amore, il rispetto, la gratitudine e la pazienza che risuonavano nelle parole. La preghiera funzionò e in un giorno la pioggia si fermò. I fiumi si ritirarono e le inondazioni si fermarono. L'imperatore tornò in salute. Hasehime venne onorata dall'imperatore in persona. Con la presente conferisco alla principessa Hasehime il titolo di Chinjo, tenente generale, una delle più alte cariche dell'impero. Sì, Hasehime! Fu davvero un onore raro ed enorme per la principessa Hasehime. Quando la principessa Terute venne a conoscenza di ciò, la sua gelosia attraversò tutti i limiti della ragione o della compassione. Un giorno... Arrivederci, cara. Vi ci vorranno alcune settimane per tornare. L'imperatore non si fida di nessun altro. Voi due vi prenderete cura del regno mentre sarò via. Ne sono sicuro. Arrivederci, padre. Prenditi cura di te. Arrivederci. La principessa Terute vide la sua opportunità mentre il principe Toyonari era via. Chiamò un servo, Katoda. Katoda, porta Hasehime sui monti Ibari. Vostra Altezza, le montagne di Ibari sono il posto più mortale in tutto il nostro paese. Nessuno può sopravvivere lì per più di un giorno. Questo è esattamente il motivo per cui voglio che tu porti Hasehime lì. Se le chiedo di accompagnarti, la sciocca non mi disubbidirà mai. Lasciala lì e non mostrare mai più la tua faccia in questo palazzo. Vostra Maestà! Se non obbedisci al mio comando, sai benissimo che, come tua principessa, io ho il diritto di punirti severamente. Sì, Vostra Maestà. Quindi, il giorno successivo, Katoda portò la principessa Hasehime sul monte Hibari. Katoda, perché mi hai portata qui? Chinjo Hasehime, è stata la principessa Terute a chiedermi di lasciarti qui, ma io non lo farò. Katoda, non devi morire con me. Torna indietro. Sai che posso prendermi cura di me stessa. Amore, rispetto, gratitudine e pazienza hanno sempre fatto miracoli nella mia vita. Mi proteggeranno anche qui. Lo so, cara principessa. Hai calmato gli spiriti arrabbiati di tuono, fulmine, pioggia e fiumi con le tue profonde qualità. Puoi compiacere anche gli spiriti della foresta. Ma anch'io ho un dovere nei tuoi confronti. Non ho negato alla tua matrigna di portarti qui, perché sapevo che, se mi fossi rifiutato, avrebbe escogitato qualche altro piano mortale per farti del male. In questo modo possiamo rimanere qui e pianificare un attacco alla regina. No, è gelosa di me, ma è una buona regina. Non la ferirò. E se torno, potrebbe ferire gli altri nel tentativo di fare male a me. Alcune cose sono meglio se lasciate alla saggezza della vita, Katoda. Se gli spiriti vogliono che torni indietro e regni, mio padre verrà qui a cercarmi. Fino ad allora sono felice di stare nel grembo della natura. Katoda costruì una piccola capanna nella foresta del Monte Hibari e lui e sua moglie iniziarono a stare lì con la principessa Hasehime. Nel frattempo, il principe Toyonari tornò e fu scioccato nel sentire che Hasehime era scomparsa. Guardò in tutto il paese, ma non trovò traccia di lei. Passarono alcuni mesi. Un giorno... Ci dispiace, Vostra Altezza, ma abbiamo guardato in tutto il paese. L'imperatore stesso aveva inviato squadre di ricerca in tutte e 8 le direzioni, ma non abbiamo sentito nulla di Chinjo Hasehime. Io lo arrenderò. Mia figlia adorava i boschi. Ricordi come è andata nei boschi a cercare ispirazione per la sua poesia per spiriti di tuoni, fulmini, pioggia e fiumi? Andrò nelle foreste più profonde delle nostre terre. Vostra Altezza, è impossibile per la principessa vivere nelle foreste per così tanti mesi. Mia figlia è stata in grado di compiacere gli spiriti di tuono, fulmine, pioggia e fiumi? E non credi che sarà in grado di compiacere gli spiriti delle foreste? Ma Altezza, perché la principessa non è tornata da sola? Deve avere una buona ragione per non tornare. Gliela chiederò quando la troverò. Domani comincerò alle prime luci dell'alba e nessuno dovrà conoscere il mio piano. Sì, Vostra Altezza. Quindi, la mattina dopo, il principe Toyonari partì. Neanche la principessa Terute era a conoscenza del suo piano di controllare le foreste. Il principe cercò per settimane intere. Era certo che Hasehime fosse viva ed era determinato a trovarla. Dopo 4 settimane di ricerche, un giorno raggiunse il monte Hibari. Si fermò a un ruscello per bere dell'acqua. Cos'è questo suono? Davvero? Potrebbe essere davvero? Hasehime! Hasehime! Padre! Padre! Oh, figlia mia! Ti abbiamo cercata ovunque! Ah, sono così contento di vederti. Stai bene, mia cara? Sto bene, padre. La principessa Hasehime e Katoda riferirono tutto al principe Toyonari. Di come la principessa Terute avesse cospirato per ferire Hasehime, il principe Toyonari era furioso. La donna sarà pulita. In che modo una donna il cui cuore è pieno di gelosia avrebbe posto nel suo cuore per amore, rispetto, gratitudine e pazienza per servire il suo regno e il suo popolo? Il principe Toyonari bandì per sempre Terute dal Giappone. Hasehime crebbe fino a diventare uno dei sovrani più grandi del Giappone, governando il suo popolo con i principi di amore, rispetto, gratitudine e pazienza.